Sono solo nuvolette. Dai fumetti al pop. Viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio, Fulvio Gatti. E bentornati in onda con Sono Solo Nuvolette. Siamo alla puntata, credo, numero 37. Ieri sera riascoltavo su Mixcloud le varie puntate e ci abbiamo messo un po', perché in realtà praticamente credo di avere nel foglio di appunti l'invito a Giovanni Del Ponte dalla seconda puntata. Tipo, il primo era Manzieri, poi ho detto poi Giovanni, non siamo mai riusciti a combinare finora, ma finalmente ci siamo. Come chi butta un occhio in webcam può già vedere, a caldo il ragazzo, quindi si prepara una bella chiacchierata. Giovanni Del Ponte, scrittore per ragazzi, è un piacere averti qui con me. Altrettanto, grazie. Ok, intanto c'è parecchio da dire, abbiamo già chiacchierato noi fuori onda, c'è sempre questa parte divertente della trasmissione che non conoscerete mai, che è il pranzo e la chiacchierata, tutta una serie di idee che vengono fuori. Alessandro, puoi venire a pranzo anche noi, anche tu con noi le prossime volte, perché sennò non impari abbastanza, così invece impari un po' di tutte queste cose. Alessandro, hai visto 50 sfumature di grigio ieri sera tu? Tu che sei giovane, magari queste stupidaggini, no? Nah, ma tanto è porno per casalinghe, non vedere. C'era niente neanche di che fosse particolarmente eversivo. Stupidaggini. Con Giovanni mi piace parlare. Innanzitutto, tu sei molto preparato sulla cinema, fumetto, e tra l'altro ti ho visto, e questo, se non avete mai visto Giovanni a una presentazione, a un workshop, invito ad andarci, invito a far partecipare bambini, adolescenti, perché tu sei molto bravo a trasmettere la passione per quello che è il tuo immaginario, che poi è parte dell'immaginario pop, ognuno ha le sue sfumature, però hai tanti autori che sono tue influenze e sai trasmettere molto bene questa tua passione, e poi sai anche molto bene raccontare le tue storie, per esempio una serie come Gli Invisibili. Se dovessi raccontare, partiamo dall'inizio, facciamo un po' come la genesi dei supereroi, e io la conosco già, però qual è l'episodio iniziale per cui tu hai cominciato a scrivere? Degli Invisibili, dici? Gli Invisibili, oppure in generale, c'è una certa fiaba? Allora, in generale è successo... Un pochino più vicino, per favore. È successo tutto intorno ai 26 anni, più o meno. Cercavo un regalo da fare a Giovanna, la mia compagna ormai da 25 anni, e allora avrei voluto per Natale regalarle qualcosa che nessuno avrebbe potuto regalarle. Eravamo appena andati a vivere nella soffitta di mia nonna. E allora, sapendo che non avrei avuto tempo di fare un film come facevo allora, giravo film per il cinema indipendente, cortometraggi, mediometraggi. Okay. Avevo però in mente una storia su una giovane coppia che ereditava una soffitta dalla nonna di lui. Lei portava le sue gatte, lui portava i suoi fumetti, e in questa soffitta però trovavano un folletto, proteggi case. Loro non sapevano di averlo, in realtà tutti noi in ogni casa abbiamo dei folletti proteggi case che ci proteggono, e durante la notte se aprissimo gli occhi forse vedremmo i bagliori del duello di magia tra i folletti proteggi case e le creature malvagie che ci minacciano, no? Okay, durante okay. La notte. E quando quindi tutti quei rumori che si sentono ogni tanto di notte sono esatto, quelli. Esatto, le cose che ci scompaiono magari okay. In casa. Fu una grande sorpresa per me scoprire di riuscire a scrivere questo racconto, perché per quanto io venga dal liceo classico, quando finì il liceo mi dissi: non scriverò mai nella vita, perché non è quello che so fare, non mi sono mai distinto nei temi, per esempio. Però c'era comunque in te questa vocazione narrativa che cercavi di sperimentare nei cortometraggi. Evidentemente sì, prima avevo cercato con i fumetti. Okay. I fumetti sono la mia prima passione. Fino okay. ai 13 anni ho fatto fumetti miei. E tra l'altro in particolare direi un certo fumetto Disney italiano, di autori italiani. Sì, anche se allora meno. Allora mi piaceva di più il mondo dei supereroi. Avevo scoperto da poco i fumetti Marvel, mentre la mia prima passione, a parte i fumetti che mi aveva consigliato mio padre, che erano il mago Mandrake. Certo. Non Mandrake, ma Mandrake, l'uomo mascherato, Cinefranco, Dick Fulmine. Ecco, a parte questi, fumetti in bianco e nero, come il cinema degli anni 30, quale si rifacevano, perché erano dello stesso periodo. Certo. E no, avevo scoperto poi i fumetti dei supereroi, prima con quelli di mio fratello Batman, della Mondadori. E poi però da solo quelli della Marvel e la mitica editoriale Corno, quindi certo. In particolare mi piaceva l'Uomo Ragno. È capitato su queste frequenze di parlare ogni tanto di come l'immaginario Marvel da noi in Italia sia legato editoriale Corno, poi sì. Star Comics, poi Panini. C'è anche un legame, chi ha conosciuto i supereroi Marvel qualche anno prima li ha conosciuti in una veste molto diversa rispetto a quella contemporanea. E poi io con la Marvel, con l'editoriale Corno in particolare, credo di avere un grande debito di riconoscenza per il Corriere della Paura. Ok. Di cui uscirono soltanto forse 22 numeri, credo. Quindi non durò meno di 2 anni. Era curato da MGP, Maria Grazia Perini. Ok. Che aveva anche collaborato al... era forse stata direttrice del Corriere dei Ragazzi, mm-hmm. e quindi non a caso si chiamava Corriere della Paura, che pubblicava sempre fumetti Marvel, però horror e delle serie come Simon Gart lo Zombie e tanti altri. E quello trovo che fosse veramente quella una rivista di una qualità superiore, tant'è vero che non durò. Certo, magari non era il momento giusto, oppure a volte sai, sempre un po' di immaginario, la breccia sulla cultura pop che ha fatto poi anni dopo Dylan Dog sull'immaginario, quanto è ancora importante per oggi Dylan Dog, e aveva colto un sentire comune, qualcosa che non si trovava da altre parti, quindi è sempre un discorso che facciamo su queste frequenze, come il legame del lettore, delle persone con certi personaggi, certe storie sia fortissimo. E li ha resi virali ante litteram, no? Credo che tu stesso abbia consigliato quelle letture, cioè le consigli tantissimo adesso, ma anche attraverso il tempo. Sì, anche sul mio sito, per esempio. Esatto. Ho scritto il penultimo libro degli Invisibili, Il Paese del Non Ritorno, proprio pensandolo come sarebbe potuto essere se fosse stato un fumetto all'interno del Corriere della Paura. Ok. Tant'è vero che sul mio sito poi avevo scritto un racconto e insieme... a un mio lettore, Giacomo Mura, che mi aveva realizzato la copertina, gli avevo consegnato il logo del Corriere della Paura, e quindi insieme, io con il mio racconto e lui con la copertina e la grafica, avevamo fatto il Corriere della Paura edizione 2011. Okay. E dove ringraziai MGP e l'avevo invitata anche al venire al Salone del Libro di Torino quando ci fu la presentazione. Purtroppo non stava già più bene ormai, quindi non poteva venire. Però trovo molto divertente che un narratore professionista che conosce bene gli strumenti, adesso parlo come parlano i fighi, gli strumenti narratologici, certe gabbie, certi meccanismi per creare suspense, eccetera, non prescinda però anche da il contenitore stesso. Cioè il tuo legame emotivo con quelle storie, quel fantastico, quell'horror, quella suspense, è legato anche al dove l'hai letto e al come l'hai letto. E perciò cerchi un po' hai cercato di ricreare quel contesto. Penso che sia il classico immaginario nerd nel quale mi sono sempre ritrovato, perché per esempio nella serie Big Bang Theory si vede molto bene come i nerd non possono aprire le custodie, no? Delle action figure, per esempio, sì, okay. Perché non valgono più. Ok. e per certi versi, quindi anche per me il Corriere della Paura era tutta la confezione, quindi il manifesto, c'era la prefazione di MGP che salutava i suoi lettori, lo percepivo come molto caldo. Sì. C'è un'intera esperienza in tutto quanto, non solo nella storia fumetti, ma l'intera. E penso che anche parte dell'emozione, della nostalgia legata a quello, è anche l'attesa che avevi tra un numero e l'altro. Penso che ci sia anche quello. Sì, so dove vuoi arrivare. No, io non lo so, quindi se lo sai va benissimo. Allora sì, lo so. No, nel senso che in effetti, più che non con il Corriere della Paura, quando leggevo Zagor qualche anno prima, che ho sempre preferito a Tex, sono sempre stato uno zagoriano nel periodo nonitta, mi capitava di venire in possesso di un numero, magari sulle bancarelle, costringevo mia nonna ad andare a Nizza Monferrato il venerdì mattina con la corriera, no? Da Castelnuovo Don Belbo, e mi immergevo sulle bancarelle dell'usato. Quindi mi capitava di venire in possesso di un albo che conteneva una storia già iniziata generalmente, perché ancora oggi Zagor si sviluppa su più numeri. Certo, no? Certo. E per me credo che per quanto allora mi facesse soffrire tantissimo non sapere esattamente come era iniziata la storia e soprattutto per anni non sapere come sarebbe finita, certo. Oggi ritengo che sia stata una grande fortuna, perché la mia palestra per certi versi è iniziata lì, perché ho iniziato lì a immaginarmi come sarebbero potute proseguire le storie e quindi a iniziare a disegnarmele con la carta carbone, tracopiavo i personaggi e poi a poco a poco iniziai a creare personaggi miei. Ok, sì, beh, credo che tu stia mettendo in luce un elemento molto interessante, quanto i vuoti tra una storia e l'altra per noi siano stati importantissimi, e forse adesso che Star Wars ce lo stanno disseppellendo tutto, personaggio per personaggio, lo stanno un po' impoverendo. Sì, senz'altro mostrare troppo e dire troppo per le storie, per l'immaginario narrativo, credo che sia sempre un impoverimento, perché credo che una delle funzioni principali della narrazione sia in realtà permetterci di compiere un passo in più nel nostro percorso di crescita personale. Io credo che il mistero, per esempio, sia una componente fondamentale della vita di ognuno, perché è attraverso il mistero che noi ci inoltriamo, nel mistero che poi il nostro essere, il nostro futuro. Perciò se ci troviamo poi, credo, in un immaginario dove tutto ci è dato e non abbiamo più spazi vuoti, perché sì, magari potrei non avere un'avventura completa di un personaggio, però è tale l'offerta oggi attraverso i vari media che penso che un ragazzo non abbia più forse la possibilità di annoiarsi. E per quanto mi riguarda, la noia è la palestra più importante per sviluppare l'immaginazione, magari sviluppare quegli strumenti che servono poi a raccontare, sì, altre storie ed entusiasmare altri. Sì. Ti ho tolto un po' brutalmente la parola, ma solo per passare alla prima canzone e poi esploriamo ulteriormente questi concetti che sono molto interessanti. Tutto questo discorso del mistero e dell'immaginazione. Poi in questo caso siamo un po' cerchiamo di immaginare come sia. Poi abbiamo un giovane regia che magari può dirci la sua, e gli rompo ancora un po' le scatole, sennò il povero Alessandro oramai mi sopporta. Comunque, dopo torniamo a parlarne. Adesso gli Scorpions, perché io sono vintage soprattutto per gusti musicali. Rock You Like Hurricane. Rock you. sono solo nuvolette. Dai fumetti al pop, viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio, Fulvio Gatti. E questi erano gli Scorpions, e fuori onda chiacchieravamo di genere, di invecchiamento di genere, di evoluzione di genere e di punk dei generi. Questa è una definizione che mi è venuta in mente adesso, forse ha senso, forse no. Però prendevo per i fondelli il giovane Alessandro in regia, che è sempre il nostro ninja della regia, e io inopinatamente mi rivolgo a lui in quanto giovane, e lui non ha visto 50 sfumature di grigio, spero che nessuno l'abbia visto ieri sera, invece temo che l'abbiano visto in tanti. Che è una stupidaggine, un qualcosa che pare che sia nato, secondo la leggenda, ma secondo me è possibile, da una fanfiction di Twilight. Cioè già Twilight è qualcosa che parte da un mito dei vampiri, rigira il mito dei vampiri, una banalizzazione, una semplificazione estrema. Questa è addirittura una fanfiction, che sono questi racconti scritti dai fan a partire da un testo, rigirata in Twilight. E questo è punk, secondo me, da appassionato di rock, questo è punk, qualcuno che prende degli stereotipi dei generi e li reinventa senza conoscere però il retroterra. E il successo di Twilight e lo schifo da parte di noi nerd con un po' più di retroterra è abbastanza sintomatico. E qualcun altro che prende questo immaginario, non conosce il retroterra, ci fa qualcos'altro e arriva dai lettori. E allora forse ha ragione chi arriva ai lettori. O abbiamo ragione noi che abbiamo il background? Giovanni, ti sei mai posto questa domanda? A volte le troppe letture precludono l'avvicinarsi veramente ai tuoi lettori, oppure no? Allora, questo ogni tanto mi porta anche a riflettere sulla differenza sul creare storie essendo molto giovani oppure avendo già raggiunto una certa età. Ormai io ho 50 anni, no? Per esempio. Credo che i giovanissimi, sì, evidentemente abbiano un background inferiore quantitativamente, non voglio dire qualitativamente, ma senz'altro come quantità di cose che possono conoscere, storie, inevitabile. Però da un altro punto di vista non averlo potrebbe portarli, visto che comunque l'istinto per la narrazione è qualcosa di innato, quindi si sviluppa ugualmente, potrebbe appunto portarli a creare qualcosa di nuovo, cioè a prendere da altri medium, altre forme narrative diverse da quelle che dalle forme che magari potrebbero, esatto, ispirare chi ha qualche anno in più. E qui, visto, mi riallaccio a un commento per quanto mi riguarda, avendo letto il tuo, uno dei romanzi della serie degli Invisibili, io ti considero un po' il nostro Chris Columbus, Robert Zemeckis, nel senso che quella capacità, in versione chiaramente di narratore e di scrittore, però quella capacità di far sognare, di tracciare un immaginario, di divertire, è un po'... E tu sei riuscito a riprodurlo bene, ed è un po' tipico di quella generazione di registi anni 70-80, anzi più 80-90, che comunque ci ha creato il nostro immaginario, eccetera. E penso che tu stesso, se hai cominciato anche facendo dei cortometraggi, c'è un percorso di passaggio da un linguaggio all'altro, di narrazione di una storia in un linguaggio, anche se in realtà sei influenzato da un'altra. Sì, chi legge i miei libri spesso mi dice che ha l'impressione di vedere un film. E in effetti io stesso, quando penso alle mie storie, costruisco generalmente una scaletta, come quando facevo i film prima di iniziare a scrivere la sceneggiatura. E rileggendo la scaletta è come se mi vedessi il film. La scaletta è divisa per capitoli. Ok. E complessivamente, quindi, quando rileggo la scaletta per intero, vedo il film. Se il film mi piace, allora inizio a scrivere generalmente capitolo per capitolo. Ok. Perché ritengo che non sarei in grado di affrontare la storia a metà, perché per me è molto importante che i personaggi si evolvano durante la storia, crescano. Mm-hmm. E quindi non sarei, credo, in grado di gestire bene un personaggio, per esempio, a metà della vicenda. Certo, perché credo che anche conoscerli, entrare nelle teste, qualcosa di... prima fai un lavoro più di emisfero sinistro del cervello, più razionale, poi però ti cali per coinvolgere, quindi ti cali nella storia, e quindi è un processo più creativo, più libero, però hai già dei paletti che ti guidano. Sì, ti ci riconosci? Senz'altro, perché c'è per esempio Terry Brooks, che è uno scrittore fantasy, che sostiene che per quanto molti grandi autori come Stephen King non amino la scaletta, Brooks dice il rischio di non utilizzare la scaletta è di essere costretto a farla dopo, comunque, quindi dover magari riscrivere ampie parti o arrivare davanti alla famosa pagina bianca a un certo punto, cioè a quella pagina dove non sai in che direzione andare. Ok, tra l'altro Stephen King in Home Writing lo dice, lui che in realtà scrive tanto che mi pare al centro dell'ombra dello scorpione si fosse incagliato e non sapeva come far proseguire la storia. A mio parere si nota in diversi libri anche famosi di King questa sua difficoltà. Per esempio, ritengo che il romanzo di Shining, per quanto non sia il mio romanzo preferito di King, che forse è It, in Shining c'è tutta la parte finale dove c'è questa sorta di... possiamo spoilerare, possiamo sì, spoilerare, ma troppo. In realtà possiamo spoilerare, comunque non finisce come lo Shining film, esatto. Anzi, King si era arrabbiato perché in realtà la morte di Jack Torrance nel romanzo è molto diversa dalla morte nel film. Sì, quello secondo me non è così importante, però allora io credo che il finale del film di Kubrick sia migliore rispetto al finale del libro di King, ma il libro di King sia migliore rispetto al film di Kubrick. Eh beh, ognuno è riuscito in qualcosa meglio, è questione, parliamo comunque di due maestri. Sì, beh, trovo che King comunque sia sempre difficile da trasporre sullo schermo perché ha questa spontaneità straordinaria nel costruire i personaggi, nel farli parlare, metterli in relazione tra di loro. Se togli la vitalità dei personaggi di King, che puoi percepire in maniera autentica soltanto attraverso la lettura, rimane la storia, ma la storia non è la cosa più forte in esatto, King. Esatto, tante volte il come, la narrazione, la sua narrazione avvolgente fa tantissimo. Sì. Infatti chissà se riusciranno mai, probabilmente no, a fare un vero adattamento cinematografico di It. Se ne parla da tanti anni, ho sperato a un certo punto perché il regista sarebbe forse dovuto essere il regista di True Detective, il primo, la prima stagione, ho perso da ormai tanto tempo la speranza di trovare un buon adattamento di una storia di King. Non mi era però dispiaciuto Le ali della libertà, forse è l'adattamento che ho preferito. Ok, e comunque parliamo di Frank Darabont, parliamo sì. Però di una storia secondo me meno fantastica, quindi forse non essendoci l'elemento fantastico... Boh, non si sa, comunque è un gran bel film quello di Darabont, e forse tra l'altro neanche tanto traditore, che a volte dicono che gli adattamenti sono o belli e infedeli o brutti e fedeli. Su questo ci sarebbe molto da discutere, perché ci sono poi posizioni diverse anche da parte dei lettori, no? Che si aspettano talvolta di vedere la stessa storia esattamente così esatto. com'è, e poi si sentono traditi. Io credo che come autore sarei però più soddisfatto di un regista che prendesse una mia storia e realizzasse un bel film che lui sentisse come autore, certo. No? Certo. Quindi inevitabilmente dovrebbe rinunciare a qualcosa, dovrebbe dare delle proprie interpretazioni. Però preferirei quello anziché una storia che... cioè un film che riprendesse, ripercorresse pedissequamente il romanzo, mettesse più o meno tutto, tutte le scene, però come se fosse una sorta di bignami, erano quando sì. andavo a scuola io, i sunti, sì, no? Sì, sì, sì, sì. Che no, ma li chiamano i bignami, il bignami annuale di Stephen King, quando c'è stato un periodo in cui ogni nuovo romanzo veniva automaticamente comprato per il cinema e ne facevano, li chiamavano i critici il bignami annuale di Stephen King, che era proprio una battuta comune. Adesso non so chi fosse come critico specificamente, però no, quindi meglio preferiresti un adattamento anche infedele ma sentito. Libro dei sogni, se volessi un regista, ma visto che tanto il libro dei sogni del passato e del presente spazia, non Kubrick, abbiamo visto che non era troppo impegnativo. Allora, c'è Frank La Loggia, che è un regista misconosciuto. Caspita. Che anni fa, negli anni 80, appunto, ha fatto Scarlatti, il thriller. Che non c'entra niente con il titolo italiano, che era Lady in White, la dama in bianco. Okay. Ed era una storia classica di fantasmi ambientata in una cittadina americana, molto spielbergiana. Okay. Come ambientazione. E però scrivendo il primo degli Invisibili, oltre che essermi appunto ispirato a It e altre cose, al Popolo dell'autunno di Ray Bradbury, a Il buio oltre la siepe di Harper Lee e a Sandman in Neil Gaiman, mi ero ispirato a questo film. E ormai Frank La Loggia senz'altro ha parecchi anni, però secondo me avrebbe lo spirito giusto, perché quel film a mio parere non fece successo in Italia, cioè Scarlatti il thriller, perché era una storia per ragazzi e forse per certi versi per bambini autenticamente paurosa. Ok, e quindi questo potrebbe essere stato... potrebbe avere allontanato tanto gli adulti, quindi dal proporre ai loro figli e ai loro nipoti il film. Potrebbe essere. Comunque, signor Frank La Loggia, se stai sentendo, vogliamo, visto che tanto... Beh, ma in Italia ce n'è. È italo-americano, quindi sicuramente capisce anche l'italiano, e quindi in Italia ti vogliamo forse... per l'adattamento del primo romanzo degli Invisibili. Sì, allora, diciamo che in Italia vorrei qualche autore di webserie, cioè qualcuno giovane. Okay. Però, senza pensare all'età... probabilmente qualcuno che riuscirebbe a fare un bel prodotto esportabile e fantastico potrebbe senz'altro essere Gabriele Salvatore. Certo, certo. Vabbè, come libro dei sogni direi che non è male. Comunque abbiamo anche già un commento, abbiamo ricevuto un SMS che dice qualcuno che senza firmare dice: sono davvero belli i libri di Giovanni. Chiunque tu sia, firma, ti dici anche chi sei, così grazie, ti salutiamo. Grazie mamma. No, non credo che stia ascoltando. Comunque il numero è in sovraimpressione, è il numero da, per gli SMS. Io so che volendo c'è anche diretta @radioarchimede.it. Sapere in memoria un numero è al di fuori delle mie facoltà. Comunque andiamo con la seconda canzone, che non ricordo assolutamente, quindi... Ah, ok, sì, siamo sempre... Mi piaceva l'immaginario fantastico, quindi un pezzo che si intitola God of Thunder, di un gruppo che come immaginario fantastico ci capiva. Musicalmente non saprei in realtà, però i Kiss... Thank you. solo nuvolette. Dai fumetti al pop, viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio, Fulvio Gatti. In effetti non aver mai programmato i Kiss come nella playlist, che esiste qualcosa di più profondamente nerd dei Kiss come immaginario. Poi questi, Alessandro, erano quelli che si truccavano, tutti uno da gatto, uno da... Tu essere nato in questo millennio, ti sei perso tutto. Le cose belle erano nel Novecento, oramai. Pensa io che ho preso la coda del Novecento e ero troppo giovane. Capitato. E abbiamo scoperto che... Ma no, ma quante... Cosa sei nato? Il 99? poco ci manca. Stiamo facendo una cosa molto stupida, che è discutere fuori onda con qualcuno con Alessandro in regia e non ci sentono. Comunque, vabbè, abbiamo scoperto che ha commentato Simone, che ringrazia anche l'autore dell'SMS che diceva che i libri di Giovanni sono molto belli. Condivido, è un piacere averti qua. E tra l'altro diceva anche grazie a Federica Valenti per aver letto i libri. Puoi raccontarci, Giovanni, chi è Federica Valenti? Sì, allora, innanzitutto Federica, oltre che essere una grande doppiatrice di cartoni animati giapponesi, consiglio a chi fosse interessato di andare a vedere qualche suo filmato su YouTube. Ci sono un paio di filmati dove lei è in sala di incisione che doppia i cartoni animati, che è veramente spassosa. Finge di sbagliare, perché sicuramente non è talmente professionale che non posso credere che sbagli davvero, perché con lei sono stato poi in sala di incisione, in quanto è venuta a leggere i capitoli che io ho reso ascoltabili sul mio sito. Okay. E ci siamo quindi trovati a Torino in una sala di incisione, ed è straordinaria come riesca a distanza di una settimana, per esempio, dove avevamo magari interrotto la registrazione di un capitolo a una frase, riprendere la stessa riprendere dalla frase successiva con la stessa intonazione. E mi ha lasciato veramente colpito. Il nostro amico Simone dice che è anche bravissima in Pan di Dragon Ball. Ecco, sarà il personaggio che interpreta, forse, che doppia in Dragon Ball, credo. Direi proprio di sì. Grazie, Simone. Se hai anche qualche altra domanda o curiosità, siamo qui. Fra l'altro, scusa se ti interrompo, ho conosciuto però Federica. Sì? In occasione della trasposizione in spettacolo teatrale del Castello di Dunrock, cioè la terza avventura degli Invisibili. Okay. Cioè il direttore della compagnia, Claudio Ottavi, ne fece un adattamento per uno spettacolo di una cinquantina di minuti che si intitolava Il manoscritto di Dunrock, ha cambiato leggermente il titolo, e lo propose come spettacolo per le scuole di prevenzione al bullismo. Interessante. Quindi lo rappresentò soprattutto a Torino, e però da allora ogni anno viene richiesto comunque anche in spettacoli poi aperti al pubblico, perché ha fatto davvero un bel adattamento del Castello di Dunrock. Che effetto fa vedere i personaggi con interpretati da attori da giovanissimi attori, immagino? Sì, l'età giusta, quindi sui 13 anni più o meno. Gli invisibili, faccio Yun, se per qualcuno non li conoscesse, questo gruppo di amici, diciamo, che va alla ricerca di questi misteri. Che sono molto, in cui chiaramente il lettore giovanissimo può identificarsi. Cioè, adesso non ricordo i nomi dei personaggi. Sì, sono però... inglesi i nomi, perché sono personaggi americani. Okay. Sono Douglas, Crystal e Peter, inizialmente. Okay. E poi arriva Magica Però, che è una italo-americana, e un gatto misterioso, che viene chiamato Spooky. Quindi alla fine sono gli invisibili, perché indagano su questi mondi un po' ai confini della realtà. Sì, inizialmente perché cercavo il nome di un gruppo che avrebbe potuto richiamare l'idea dei fantasmi, perché nascono come storie di fantasmi. Okay, però a poco poi negli anni iniziarono a interessarsi anche degli invisibili in senso più ampio, ovvero gli emarginati, oppure i popoli naturali, come per esempio gli indios amazzonici. Certo. E infatti il libro che tu hai letto, L'enigma di Gaia, si svolge appunto nella foresta amazzonica, dove gli invisibili addirittura cercheranno di aiutare una popolazione locale. È quasi una sorta di Avatar, se si vuole, per quanto sia uscito qualche anno prima. È molto importante, è molto bello questo saper toccare certe tematiche come l'emarginazione, come, come la diversità attraverso l'arte della narrazione anche ad altezza adolescente. E forse ne siamo stati segnati noi come lettori, è il motivo per cui utilizzi questo tipo di narrazione, direi. Che quasi sempre sono buone narrazioni di questo tipo che ci ha insegnato e poi come autori si ripropongono e ci sei riuscito molto bene con gli invisibili. Ho seguito la lezione, credo, di Stan Lee. Ok. Perché quando arrivò nel 62, nel 1962, esistevano già i supereroi con super problemi. Okay. Scusate, superpoteri. Sì. Ma lui inventò dei supereroi che poi furono chiamati con super problemi. Cioè dei ragazzi più o meno della nostra età che leggevamo quei fumetti, perché l'Uomo Ragno pochi anni in più avrà sui 16 anni, e che acquisiscono più degli handicap anziché dei vantaggi dall'acquisizione dei superpoteri. Sì, sì, sì. E quindi tutti i personaggi Marvel, se noi facciamo attenzione, sono delle metafore di persone con difficoltà fisiche, come per esempio Daredevil, Devil, l'uomo senza paura, e addirittura un personaggio come l'Uomo Ragno che si lancia dei grattacieli, non vedente però. È un cieco che si lancia dai grattacieli perché ha sviluppato una sorta di senso radar, però intanto è un non vedente. Hulk è la chiara metafora di una persona che quando si arrabbia diventa un violento e sì, quindi sì, non ha il controllo di far male. Non ha il controllo totale di se stesso. Esatto. E gli X-Men si sa che sono evidentemente una metafora di quello che accade ai ragazzi quando attraversano l'adolescenza, il loro corpo cambia. Esatto. Ed è un periodo sconvolgente per molti versi. E quasi sempre rispetto a un handicap, a una debolezza, corrisponde un punto di forza, quindi in questo caso il loro superpotere è un punto di forza, gli permette di vivere queste avventure, ma è anche ciò che li rende diversi all'interno della società e così via. Ricordo che odiai, ero nell'età giusta quando vidi lo Spider-Man di Sam Raimi, e lo odiai a morte al cinema, perché di per sé era uno Spider-Man pastorizzato, nel senso che semplificava molto le vicende incasinate di Peter Parker. Peter Parker di per sé deve preoccuparsi della zia malata, di studiare, del lavoro, non ha una lira, i cattivi che lo inseguono eccetera, invece lì nel film c'era un cattivo che andava a dormire per metà del film mentre c'era la telenovela, poi tornava, l'avevo patito molto. E di per sé credo che il nocciolo invece di questi personaggi sia il coinvolgimento emotivo, anche le attività rocambolesche, tutta questa vita, queste difficoltà che non sono poi diverse dall'adolescenza di tutti. Devo dire però che io preferì quella trilogia, okay, rispetto ai successivi due film della serie di Amazing Spider-Man, che sono usciti adesso qualche anno fa al cinema, perché forse Mark Webb, credo che si chiami il regista nuovo, trovo che abbia tolto quello che è il motto di Spider-Man, che invece era riuscito a isolare e a sottolineare bene Raimi. Che da un grande potere derivano grandi responsabilità. Sì. E trovo che se si toglie quello, l'Uomo Ragno si toglie veramente tanto. E secondo me la difficoltà è anche che rileggere questi miti a così breve distanza l'uno dall'altro, devi cercare di fare qualcos'altro, però l'orizzonte di una maschera, anche in senso narratologico, di Spider-Man è molto limitato. Come anche adesso vedremo un altro Batman. È già il terzo, quarto, quanti Batman siamo? E come? In quante maniere puoi reinventare Batman? Tante rispetto al supereroe medio, ma quante? E quindi vedremo se e come sarà interessante. Abbiamo già una domanda dal nostro amico Simone che ci sta ascoltando. Se scriverei altri libri degli invisibili? Allora, guarda, ti faccio pensare su, lancio un'altra canzone e poi rispondiamo dopo la pausa, così tu hai tempo di rifletterci. Suspense, come si fa? E dopo la canzone, e qui immaginario nerd a profusione, la mia adolescenza, che erano gli Iron Maiden, ma che hanno scritto un pezzo che si chiama To Tame a Land, che in realtà riprende Dune di Frank Herbert. Thank you. sono solo nuvolette. Dai fumetti al pop, viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio, Fulvio Gatti. E oggi abbiamo il piacere di avere ospite Giovanni Del Ponte, con cui stiamo chiacchierando di cultura pop in generale, di come l'influenza, tutta una serie di immaginario che abbiamo sperimentato da lettori, poi ci ha influenzato, e nel caso di Giovanni è stato strumento primigenio per una propria narrazione, una propria serie, che è quella degli Invisibili. Tra l'altro Simone, che ci sta ascoltando, che salutiamo, ha anche fatto una domanda molto specifica. Giovanni, ci saranno altri libri degli Invisibili? Allora, l'ultimo in effetti è uscito nel 2013, quindi sarebbe quasi ora. In realtà l'editore non me ne ha più chiesti. E quindi questo mi fa capire che sono molto sincero, molto onesto. In effetti è una serie che ormai conta 16 anni, nel senso che il primo uscì nel 2000, è tuttora pubblicata, sono usciti 6 volumi. E forse potrebbe avere fatto il suo tempo, chissà. Mi sto molto interrogando attualmente sul perché gli ultimi abbiano venduto meno, perché i primi 4 avevano venduto sulle 100.000 copie, gli ultimi in realtà ne hanno vendute poche migliaia, e evidentemente l'editore non è così interessato. L'editore è De Agostini attualmente, certo. I primi erano Spelling & Kufer, De Agostini li ha ripubblicati e poi ha pubblicato i recenti, gli ultimi due. Chissà, ultimamente sto anche riflettendo sul fatto che quando ero ragazzo, come dicevo poco fa, leggevo cose che aveva letto mio padre, cioè i fumetti del Mago Mandrake, l'uomo mascherato, eccetera. In televisione tutta la famiglia vedeva le stesse cose, perché vedevamo Sandokan, per esempio, con Kabir Bedi. Allora mio padre aveva l'occasione di parlarci dei misteri della giungla nera, del fatto che quando era medico era stato sul set a Torino, c'era Alex Barker, aveva lavorato come medico sul set e quindi mi raccontava degli aneddoti, e poi parlavamo con mio fratello dei romanzi di Salgari. Quindi tutta la famiglia aveva un immaginario comune. I ragazzi oggi ho l'impressione che fruiscano sempre di più di storie studiate specificamente per loro, dalle quali forse hanno meno occasioni di uscire, di allontanarsi, perché l'offerta oltrepassa in larga misura la domanda di questi stessi ragazzi, quindi c'è sempre qualcosa di nuovo, no? Studiato specificamente per loro, e quindi hanno forse meno occasione di annoiarsi, di trovare appunto quel vuoto di cui parlavamo prima, no? Allora mi chiedo, ma io oggi come autore posso ancora essere in grado di essere appassionante e vincente per un nuovo ragazzo di 12-13 anni? Questa è una bella domanda. Secondo me sì, è solo questione, può anche darsi che il fatto stesso che sia una serie iniziata allontani un po', forse ci vorrebbe un altro primo capitolo, però esce ancora anche dovresti fare il reboot di te stesso, potresti provare. Ma con l'ultimo, che era La ragazza fantasma, avevo cercato di, in un certo senso, fare un rilancio della serie, perché si ritornava a Misty Bay, che era l'ambientazione dove si era svolto il primo, che era Il segreto di Misty Bay, no? Quindi a distanza di tutti quegli anni gli invisibili ritornavano a vivere un'avventura nel loro paese natale, in questa cittadina nel nord della California nebbiosa. Quindi c'era già un ritorno al passato. Sì, e dove però gettavo delle basi per avventure future. Solo che a questo punto non si sa se ci saranno mai. Devo dire che però per chi conoscesse soltanto gli invisibili dei libri, sul mio sito, nella sezione racconti, è possibile scaricare un racconto inedito che doveva essere una prima parte dell'ultimo romanzo, poi in realtà avevo preferito toglierlo. Ok, tra l'altro il tuo sito è? È www.giovannidelponte.com. Perfetto. E ci sono anche un sacco di altri contenuti extra, contenuti inediti sul tuo sito, giusto? Sì, fra l'altro, visto che gli ultimi miei libri affrontano delle problematiche anche importanti, l'ultimo per esempio parla della non località della coscienza, La ragazza fantasma, che è una definizione che sembra difficile. In realtà è stata coniata da Rupert Sheldrake, che è uno scienziato e un botanico, nasce come botanico in realtà. Lui si chiese, ma come faranno le piante a sapere che forma devono far assumere alle loro foglie, perché gli animali, compresi gli esseri umani, hanno i genitori che istruiscono i cuccioli, no? E come fanno le piante? Ovviamente gran parte delle informazioni è contenuta nel DNA, però lui è arrivato a ipotizzare che ogni specie vivente acquisisca la maggior parte delle informazioni fondamentali da un campo di informazione. Che... Ma è il campo morfico, è la stessa. Esatto. Okay. L'altra teoria legata agli animali, per cui tu metti un topo in un labirinto a New York e lui trova l'uscita, subito fatica ma trova l'uscita, poi ne metti un altro in uno stesso labirinto a Roma e lui trova subito l'uscita. Esatto. È come se si trasmettessero telepaticamente le informazioni. Sì, sì, credo che questa teoria derivi proprio dalle ricerche di Sheldrake. Ok, che sulla stessa teoria. Ha condotto anche ricerche incruente, ci tengo a dire, quindi non in laboratorio, certo. Sui cani, sulla telepatia dei cani, perché lui... ha collocato delle webcam nelle case di quei padroni che sostenevano che i loro cani si alzassero subito prima del loro arrivo, no? E lui ha cercato di eliminare tutto quello a cui potremmo pensare, cioè che il padrone torni allo stesso orario con la stessa auto, eccetera eccetera. E si è notato che una certa quantità, non tutti, però una certa quantità di cani si alzavano anche se il padrone arrivava in orari diversi, a piedi anziché in macchina e così via. Allora lui ipotizza che questi campi di informazione in membri della stessa specie che sono molto vicini o addirittura gemelli, no? Possono mischiarsi, possono entrare in comune e addirittura per specie diverse, come possono essere i cani e i loro padroni, dove si sa che esiste un rapporto molto stretto. Certo. No? Allora io ho pensato che questa ipotesi, che non è una teoria perché non è accettata dalla comunità scientifica, ancora, infatti, attualmente, in fase di studio. Esatto, comunque poteva in qualche modo spiegare l'origine dei fantasmi. Nella ragazza fantasma, quindi, io ho ipotizzato che una ragazza che dovrebbe essere morta, non voglio entrare troppo nei particolari, si ritrova in una sorta di dimensione parallela dove può assistere ancora a quello che accade dalla nostra parte, ma non sa come andare di là. Ok. E può essersi persa perché nel percorso che la nostra coscienza dovrebbe compiere per raggiungere questo campo di informazione, lei si è smarrita. E questo forse potrebbe spiegare l'origine dei fantasmi, perché semplicemente sono coscienze che si perdono in questo tragitto. In certi casi vengono trattenute da chi non vuole lasciarle andare. Ok. E ti piacerebbe definire questo fantascienza, nel senso che è una speculazione nei confronti di una teoria scientifica e fatta storia? Perché vedo un po' troppo, tante volte utilizzato il termine fantascienza come per dire una stupidaggine. Invece fantascienza è speculazione. Qui penso che tu abbia fatto un percorso di speculazione e costruzione a partire da una teoria scientifica. Eh sì, non approvata, ma una teoria scientifica. Eh sì, è quello che mi affascina della fantascienza, cioè a differenza del fantasy, se ci pensiamo anche a un film come Guerre Stellari è fantasy, esatto. Perché non c'è alla base alcuna ipotesi o teoria scientifica o parascientifica. Esatto, no? È più costruzione del mondo in quel caso, è un mondo fittizio, succedono delle cose. Esatto, certo. Mentre Ritorno al Futuro, per quanto sia un film di evasione, che non ha un particolare spessore, è fantascienza perché a un certo punto lo scienziato dice la macchina del tempo funziona così e cos'ha. Poi naturalmente non potrebbe funzionare, ma non importa. Ecco, quello che a me piace della fantascienza è proprio la possibilità che ci dà di interrogarci su quello che però potrebbe anche essere la nostra spiritualità, perché parlando ovviamente della vita oltre la vita, si va nell'ambito della spiritualità. Certo, certo. Infatti avevo iniziato questo discorso quando mi chiedevi anche del sito, eccetera, perché sul mio sito ho la possibilità di approfondire questi argomenti, cosa che uno scrittore di qualche decennio fa, per esempio, non poteva fare, avrebbe dovuto mettere tutto nel romanzo, no? Io credo quindi di poter sfuggire un po' alla mia tentazione di essere poi troppo ricco di contenuti scientifici e parascientifici, spostando tutto sul sito, così il romanzo può essere un po' più leggero. Beh, credo che sia un po' una nuova frontiera di scrittori ai tempi dei blog, ai tempi di internet, che tante volte condividere le proprie passioni, condividere l'oggetto delle ricerche è un arricchimento anche per chi ti segue. E quindi poi questo a prescindere dal fatto che poi magari frammenti di quelle ricerche emergeranno anche nelle prossime tue storie. Chissà, comunque sì, senz'altro ormai penso che i lettori siano sempre più abituati a fare parte del mondo degli autori, certo, dei creatori di storie, e ormai gli stessi creatori non possono più considerarsi arroccati in una sorta di torre d'avorio dalla quale fare cadere ogni tanto e dispensare la conoscenza. Esatto, e questo penso che per certi versi possa essere qualcosa di positivo. Senz'altro ci toglie un po' di pesantezza come autore, anche forse un po' di responsabilità. Io comunque credo che nessun autore mai ci possa insegnare qualcosa che non sappiamo mai, che non sappiamo già. Credo che nessun pensatore, grande pensatore, per quanto grande sia, possa insegnarci qualcosa che già non sappiamo. Io credo che semplicemente se qualcosa ci risuona in qualcosa che sentiamo dire da qualcun altro o che ritroviamo in una storia, no? Ci risuona come se fosse una grande verità e ci diciamo: ma che persona profonda, mi ha detto questa cosa che è proprio vera. Ecco, se questo succede, secondo me è perché quella conoscenza c'era già dentro di noi. Diversamente noi non capiremo perché quello che sostiene un determinato autore o pensatore sia così importante per altri. Ok. Perché saremo su lunghezze d'onda differenti, potremo studiare quegli autori. Nella versione estrema porta un po' al confirmation bias, che è una cosa brutta di internet, che ormai tendiamo a cercare le opinioni e gli opinionisti in base al fatto che ci dicono quello che già pensiamo. Quello a volte, questa è la versione più estrema, è un po' problematica. Ma quando io ritrovo delle, appunto, queste profonde verità in autori che io amo, mi sento stimolato a, appunto, speculare, a fantasticare. Ok. E così credo che gli autori siano importanti comunque per portarci il loro contributo, ma solo per accompagnarci in un pezzettino del nostro viaggio, ma che poi debba continuare indipendentemente. Beh, direi che questo può valer in questo senso. Allora, nessun manuale di scrittura o manuale di creatività può funzionare bene quanto quello che noi creiamo, costruiamo nel tempo per noi stessi, giusto? Ovviamente dipende come noi siamo fatti. Alcuni di noi preferiscono avere una guida perché forse si sentono insicuri, preferiscono essere accompagnati. Vale tutto, fondamentalmente. Okay. Anzi, nessuno, poi soprattutto quando si tratta di passioni, deve sentirsi in qualche modo vincolato. In difetto, o vincolato, perché le passioni vanno sempre bene, secondo me, quando non naturalmente non danneggiano altri esseri viventi, eccetera. Okay. Per esempio c'è Werner Herzog, questo regista tedesco, che parlando delle storie in generale, all'intervistatore gli chiedeva qual è secondo lui il senso delle storie, se è quello di riprodurre la realtà. Herzog ha risposto sostenendo che non esiste nessuna realtà, cioè non sia possibile nelle storie riportare la realtà. Non so se si riferisse a esperimenti come il neorealismo italiano, che pure ha prodotto dei capolavori, no? Che era un cinema che pretendeva di essere molto fedele, molto vicino alla realtà. Certo. Ed è in qualche modo responsabile di gran parte del nostro immaginario, dove in Italia si ha più difficoltà ad accettare il fantastico, certo, perché sembra che sia disimpegno, no? E invece Herzog dice no, non esiste nessuna realtà dei fatti in un'opera d'arte, perché non ci può essere realtà, lui dice, perché è comunque mediata dall'immaginario, dal modo di sentire dell'autore. Allora lo scopo, a suo parere, dell'arte non è quello di riprodurre la realtà, ma è quello di produrre illuminazione. E io sono d'accordo con quello. Illuminazione vuol dire farci scoccare quella scintilla, provocare quello scarto. Quello scarto che ci fa uscire dai binari che sono quelli in cui ci vuole la società, la cultura in cui siamo inseriti, no? Sì. Che non sempre però ci fanno ci lasciano abbastanza liberi di sperimentare, di trovare quello che è bene per noi e anche per la comunità. Sto pensando per esempio alla società dei consumi, certo, che ci vuole più anziché persone... Consumatori e quindi persone che rinunciano anche ai diritti in favore di servizi. Esatto, esatto. Beh, direi che per aver cominciato chiacchierando ed essendo una trasmissione che parla di cultura pop, averti avuto ospite ci ha permesso di toccare tanti spunti, poi chiaramente diamo dei flash, non vogliamo far trattati, però penso che gli argomenti di interesse siano stati parecchi. Grazie Giovanni Del Ponte per essere stato qui a Sono Solo Nuvolette. Grazie Fulvio. Abbiamo dato il tuo indirizzo. Grazie a Simone che ci ha scritto. E Sono Solo Nuvolette vi dà appuntamento la prossima settimana. E vi lasciamo ancora con una canzone. C'era la mezza idea, voleva proporre qualcosa Giovanni, poi sono stato più veloce, l'ho fregato, e quindi cronometriamo la polvere insieme ai ministri.